Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti, da Frey e Olga. Ben ritrovati e ben ritrovate a Van Loon, il programma di storia a cura del caso S, che come ogni sabato vi tiene compagnia con un tuffo nel passato. La settimana scorsa abbiamo fatto un viaggetto nella Londra degli anni 30, raccontandovi la battaglia di Cable Street, che potete riascoltare in podcast naturalmente sulla nostra pagina www.radiovalloon.info. Botte da orbi per i fascisti, e questa settimana torniamo dalle nostre parti, ma rimanendo, diciamo, in tema. E torniamo su un argomento che ci sta particolarmente a cuore tutto l'anno, ma specialmente ad aprile, cioè quella della Resistenza. Una tematica che sicuramente è stata molto studiata, ma la particolarità di cui vogliamo parlare in questa puntata sembra essere invece poco esplorata dalla storiografia, dalla memorialistica. Abbiamo fatto delle ricerche, ma il risultato è stato un po' poco. Parliamo infatti dei partigiani stranieri, ovvero partigiani nati e vissuti all'estero, o cittadini stranieri cresciuti in Italia e residenti in Italia, che tra il 43 e il 45 si trovavano in Italia magari per varie ragioni, disertori, ex soldati internati, lavoratori, cittadini stranieri residenti in Italia per l'appunto, che hanno combattuto al fianco dei partigiani italiani nelle zone della Resistenza. Un tema che il sottoscritto Frey conosce abbastanza da vicino, ma non troppo, dovrebbe essere approfondito in quanto sono un nipote proprio di uno di questi partigiani stranieri. Parlo di Dieter Tito Frey, che è stato un ufficiale, se così possiamo dirlo, della Resistenza nel corso delle quattro giornate insurrezionali di Napoli, che ricevette nel 1956 la medaglia di bronzo al valore militare. Il terreno di ricerca su questo argomento però, come dicevamo, è poco esplorato, e possiamo azzardare anche alcune ipotesi del perché queste storie siano poco conosciute. Sì, Frey, azzardiamo delle ipotesi che appunto sono ipotesi, che non sono sicure, ci sono delle probabilità. Comunque in questa piccola ricerca che noi abbiamo fatto abbiamo azzardato queste ipotesi. Per esempio, i partigiani e le partigiane non avevano i nomi di battesimo quando erano tali, ma avevano i nomi di battaglia per ovvie ragioni di sicurezza, e di conseguenza poteva essere difficile ricostruire queste identità, specialmente se i partigiani in questione erano stranieri. Un'altra ipotesi è che una volta finita la guerra questi uomini e donne sarebbero potuti tornare nel loro paese d'origine, facendo perdere le loro tracce e magari seppellendo nei meandri della memoria la loro esperienza resistenziale. Un'altra ipotesi è che i partigiani, morendo durante le azioni di guerriglia, venivano tumulati in anonime tombe, anche perché nessuno magari conosceva il loro vero nome. Poi c'è un'altra questione che è più ideale che pratica. Nella lotta partigiana molto spesso non contava la nazionalità, ma contava l'ideale di libertà e la voglia di combattere per questa. Facciamo nostre le parole di un giovane comandante partigiano delle Armées Partisans Belges, cioè i partigiani belgi, che era di origine italiane. Questo partigiano è Jacques Grippa, o Jacques Grippa se lo diciamo alla francese, che è intervistato negli anni 70 per uno studio appunto sui partigiani italiani che avevano combattuto in Belgio, rispose: quando arrivavano i nuovi ragazzi, a nessuno veniva chiesto di quale paese fosse. Veniva richiesto loro di combattere per gli ideali della Resistenza. Per questo non ricordo bene se ci fossero italiani nel mio battaglione. A me non importava niente della nazionalità. This government had an idea and Parliament made it law. Seems like it's illegal to fight for the Union anymore. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Set off to join the picket lines, for together we cannot fail. We got stopped by police at the county line. They said, go on, boys, or you'll go into jail. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, it's hard to explain to a crying child why her daddy won't go back. So the family suffer, but it hurts me more to hear a scab say, sod you, Jack. Which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Well, I'm bound to follow my conscience, and I'll do whatever I can. And it'll take much more than a union law to knock the fight out of a working man. And which side are you on, boys? Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on? Bene, stiamo parlando di partigiani stranieri in Italia, partigiani stranieri attivi nella resistenza italiana, e di cui abbiamo già detto che poche sono le informazioni, le possibilità di ricostruire questi percorsi. Sappiamo però che in Emilia Romagna ci furono, e in un numero anche non trascurabile. Molti furono infatti partigiani stranieri attivi nella nostra resistenza. Abbiamo rintracciato un opuscolo ormai datato del 1977 che la regione Emilia-Romagna dedicò ai partigiani stranieri attivi sul territorio e ai partigiani emiliani attivi all'estero. In una tabella redatta dallo storico Guerrino Franzini si parla di quasi 1500 partigiani, la stragrande maggioranza sovietici, che combatterono in tutte le province. Perché queste persone si trovassero qui non è totalmente chiaro. I sovietici in particolare erano stati nemici giurati fino all'8 settembre del 1943. Probabilmente erano prigionieri che i tedeschi utilizzavano come manodopera forzata e che erano stati reclutati e deportati dai campi di concentramento tedeschi per l'allestimento della difesa marittima e terrestre del nord Italia. E sembra che i partigiani sovietici che hanno partecipato attivamente alla resistenza italiana, quindi in tutto il paese, siano circa 5.000. Probabilmente con alle spalle percorsi di questo tipo, però anche qui manca uno studio vero e proprio su questa tematica. Per fare l'esempio solo della nostra provincia, nel bolognese sono attestati stranieri nella brigata Bianconcini, operante nell'Imolese, e nella famosa brigata Stella Rossa, quella del comandante Lupo, cioè Mario Musolesi, che operava nella zona di Marzabotto. Di questa brigata c'è una foto nel libro Il Reno Brontola, molte voci, una memoria, a cura di Cesare Bianchi ed edito nel 2002 dalla casa editrice Renzo. In questa pagina del libro si vede chiaramente una persona di origine indiane con il classico copricapo, il turbante, e di lui sappiamo che il suo nome di battaglia era Sad. Era di Nuova Delhi e prima di essere partigiano aveva fatto parte dell'ottava armata inglese, formata appunto dagli aderenti al Commonwealth, e che aveva risalito la penisola dallo sbarco in Sicilia. Sempre nella Stella Rossa c'erano molti russi, forse una quarantina, alcuni cecoslovacchi e un partigiano di origine mongola chiamato Karaton. Dopo lo scioglimento della Stella Rossa, molti di questi si trasferirono nella zona della 63ª Brigata Garibaldi, formatasi dopo l'8 settembre dalle parti di Bazzano, a nord-ovest di Bologna, e comandata da Monaldo Calari, nome di battaglia Bolero, che diede appunto il nome alla brigata, conosciuta nella storia come Brigata Bolero, dopo che lui era caduto in uno scontro con i nazisti. Ai primi di ottobre del 44 la brigata fu attaccata da ingenti forze tedesche a Rasiglio, zona Sasso Marconi, perché occupava un'importante posizione strategica alle spalle della linea gotica. Lo scontro durò più giorni, con gravi perdite da parte dei partigiani. 13 di questi, ancora vivi, furono trasferiti a Casalecchio di Reno e trucidati nei pressi del ponte della ferrovia, in quella che è passata la storia come l'eccidio di Casalecchio. Tra questi partigiani c'erano tre russi e Martinez Collado, di 25 anni, nato a San José di Costa Rica. Perché un costaricano era a Bologna nel 44 e per di più si ritrova a combattere come partigiano? Martinez aveva frequentato gli studi presso l'Università di Bologna, all'Istituto di Anatomia Patologica. Si era laureato in medicina con il massimo dei voti. Il 27 agosto 1944 fu interrogato dalle Brigate Nere nella caserma di Via Santa Chiara, vicino all'allora carcere per prigionieri politici di San Giovanni in Monte. Nei giorni seguenti Martinez si decise ad entrare nella clandestinità, collegandosi al gruppo della 63ª Brigata Bolero Garibaldi, con la quale poi trovò la morte. Il comune di Casalecchio gli ha dedicato il nome di una via e il suo nome è ricordato anche nel sacrario di Piazza Nettuno a Bologna. mente, in quello tutto del 43. Accollo un fazzoletto del colore del sangue, una mitraglia fra le mani, fredde, luride e stanche. La staffetta pensa alla sua bella che l'aspetta, e dalla scatola di latta prende un'altra sigaretta. Sa bene che se mi può notare per arrivare, piano vuole venire, lui mi sa sparare. C'ha paura, lo congela, ma fermo su di sicuro, c'è tanto canto partigiano. Se ci credi davvero morire meglio che scappare, e piuttosto che scappare resto fermo nel mirino, anche quando so che non vedrò un altro mattino. E il 26 novembre 1943 con l'ultimo mattino mi sto tratti con me, è convinto che la storia la facciamo con quanti, basta solo aver le palle. Ma partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io voglio partigiano, devi seppellire là sotto l'ombra di un vecchio. Un altro partigiano della Bolero ci ha lasciato, al contrario di forse di tutti gli altri, le memorie, le sue memorie di quei giorni. Il libro che ha scritto si chiama Banden Waffen Raus, edito nel 1965. Lui si chiama William Beckers, il partigiano Willy. Partigiano Willy era nato in Olanda e di mestiere faceva l'autista. Dopo l'occupazione dell'Olanda nel 1940 venne arruolato nell'aeronautica tedesca. Partecipò a diverse campagne in Africa e in Italia. Nell'estate del 43, quando le truppe alleate vi sbarcarono, si trovava in Sicilia. Durante la ritirata dell'esercito tedesco rimase ferito a Salerno e fu ricoverato all'ospedale militare di Bologna. Dopo essere rientrato nel suo reparto, disertò e ritornò a Bologna. Trasferitosi nella zona di Monte San Pietro, militò nel battaglione Monaldo della 63esima Brigata Bolero Garibaldi. Operò nelle zone di Montefiorino, dove viene instaurata una delle prime repubbliche partigiane nell'estate del 44. Il prologo del libro di memoria del partigiano Willy comincia così. Il battaglione di cui vi parlo, la Brigata Bolero si intende, era composto da ex soldati, da ex carabinieri, da fuggiti dai campi di concentramento, da soldati russi, polacchi e cechi, e da me, che venivo dai Paesi Bassi. Sembra che Becker sia uno dei pochi partigiani stranieri in Italia ad aver lasciato le sue memorie, tramandando fino a noi la sua straordinaria vita. Sempre pensando al bolognese, naturalmente ci sarebbero tante altre storie da raccontare. Una di queste che mi viene in mente ce l'aveva raccontato la professoressa Silvana Castello, un'ex professoressa molto attiva nell'Ancescao e nel circolo Montanari della Bolognina, che ci raccontò della storia, questa sarebbe tutta da scoprire, di questo partigiano Deutsch, non ricordo neanche bene come me l'aveva raccontato, che addirittura dovrebbe essere stato attivo nel quartiere della Bolognina, un partigiano tedesco che aveva disertato il suo campo ed era si era ritrovato a combattere contro i suoi ex combattenti. Purtroppo la professoressa Castello ci ha lasciato, quindi non è una storia che non possiamo farci riraccontare con grande dispiacere. Naturalmente, come dicevamo, questa storia dei partigiani stranieri in Italia è tutta da scrivere, quindi l'invito che possiamo lanciare verso storiche e storici di prendere in mano questa storia, che sarebbe molto importante da recuperare, perché sono storie sconosciute ma incredibili, e per restituire alla memoria una verità fin qui solo accennata. La resistenza è stata un fenomeno più transnazionale di quanto si immagini. È stata una commistione di culture che aveva come obiettivo sconfiggere il nazifascismo in nome della libertà. Grazie Frey, e rilanciamo veramente questo appello e chiediamo anche se qualcuno ha qualche informazione in più, oltre a storici e storiche, altre anche appassionati, di scriverci magari sul sito, di scrivere una mail, di rintracciarci. In ogni modo magari proveremo a fare fare anche altre ricerche e continuare come una specie di secondo atto di questa puntata. E prima di lasciarvi ai suggerimenti per gli appuntamenti, che sono moltissimi, da adesso al 25 aprile, vi lasciamo con una poesia di Renata Viganò, che era una partigiana e una scrittrice e una poetessa che era attiva nelle Valli di Comacchio e nel Bolognese. Scrisse soprattutto il romanzo da cui trassero il film L'Agnese va a morire. Compagni, bisogna restare qui. È una casa di contadini e i contadini hanno paura, ma bisogna restare qui. Abbiamo le armi e non abbiamo le scarpe. Metti i piedi in mezzo alla paglia, tirati addosso il tuo cappotto. C'è un po' di caldo qui sotto, un po' di caldo di stalla. Compagni, dobbiamo dormire, dormire molto senza pensare. Se tu non hai sonno, non mi vegliare. Se anch'io non ho sonno, ci mettiamo a cantare. Ma se qualcuno bussa alla porta, pronti con il mitra, che amici non sono. Non torneranno i compagni morti, noi forse domani andremo da loro. Ragazzi, a turno in un sol bicchiere, beviamo quel fiasco di vino buono. Siamo operai di un grande mestiere e fra poco ricomincia il lavoro. Adesso è tempo di riposare. Ma io vorrei morire stasera e che voi tutti morireste col viso nella paglia marcia se dovessi un giorno pensare che tutto questo fu fatto per niente. Viva il 25 aprile, viva l'antifascismo, viva la resistenza. Ci ascoltiamo un pezzo di musica e poi spazio agli appuntamenti. No! ritorniamo in studio con moltissimi appuntamenti in questo pre-25 aprile. Velocissimamente, se vi trovate a Modena tra un'oretta circa, c'è la sottoscritta alla libreria Un'idea per presentare, chiacchierare anzi di antifascismo con Chiara Lusuardi e i compagni e le compagne di Modena Antifascista. Chiara Lusuardi che sarà nostra ospite la settimana prossima. Trattiamo di resistenza antifascismo e la bella iniziativa è antifascismo tra GAP modenesi ed emigrati italiani. Sempre tra una mezz'oretta c'è una passeggiata in Cirenaica per la Cirenaica antifascista e ci si ritrova lì per fare la passeggiata nel rione e per chiacchierare un po' di antifascismo anche spiegando il nome delle vie e la storia dietro la Cirenaica. Allora, naturalmente poi non possiamo non invitare tutte e tutti a partecipare al corteo del 25 aprile, partenza dalla barca, quindi quello sarà una bella passeggiata. In anticipazione al corteo del 25 aprile, martedì 24 aprile, ore 20:30, dibattito su vecchi e nuovi fascismi al Baraccano, organizzato da Staffetta Antifascista di Bologna. Ore 20, sala del Baraccano in via Santo Stefano. Passiamo poi a Carrara. Vi proponiamo, per chi fosse da quelle parti e chi ci ascolta dalla regione toscana, segnaliamo un bel appuntamento a Carrara, nei luoghi dell'ex ospedale San Giacomo, ex camera del lavoro. Non sappiamo bene dove si trovi, quindi chi ha maggiori informazioni magari ce le scriva anche sulla pagina Facebook. Festival dell'Ecologia Sociale 1988-2018 per ricordare un brutto incidente che ci fu alla Mount Edison nella zona del Cararino nel 1988. C'è una bella mostra su questo, di documentazione su questo incidente. Comunque l'iniziativa è organizzata dal Circolo Anarchico Goliardo Fiaschi e dall'Archivio Germinal di Carrara, quindi buttateci un occhio. Sì, vi segnaliamo che è in corso ancora fino a domani Storia in Festival dalle parti del 38 di via Zamboni insieme a Antropologia in Festival e si parlerà di migrazioni e il programma completo lo trovate su Facebook. Sì, lo segnaleremo anche sulla nostra pagina. Infine torna al cinema Ex Libris the New York Public Library, il nuovo capolavoro di Fredrik Weismann che ci porta a scoprire una delle istituzioni culturali più importanti del mondo, la New York Public Library di New York per l'appunto. Il film verrà proiettato sabato 21, domenica 22, lunedì 23 al Pop-Up Cinema Palace di Cinema Medica Palace via Montegrappa 9 e lunedì 23 aprile presso il Cinema Odeon. Altra cosa di cui si potrebbe parlare a proposito dei film è il film sul giovane Marx. Nessuno di noi l'ha ancora visto, lo vorremmo vedere presto e cerchiamo di farci un'idea. Bene, per oggi è tutto, buon proseguimento di giornata da Frey e Olga e buon 25 aprile. Ciao!